Ho preferito dare a questo intervento un titolo generico e quasi burocratico, il Concilio di Trento e il diritto canonico, per sottolineare che esso si propone una riflessione strettamente legata all'occasione che ha dato luogo a questo convegno, il 450° anniversario dell'apertura, il 450° anniversario dell'apertura del Concilio, alla vigilia del terzo millennio. Ritengo infatti che queste occasioni non siano mai neutre, ma ripropongono ogni volta una rilettura quando si tratta degli momenti che incidono ancora profondamente nella nostra vita, delle fonti, dei documenti in base a nuovi quesiti, a nuove domande che riteniamo essenziali per il nostro essere uomini cristiani di oggi. La domanda fondamentale a cui dobbiamo rispondere ora, nell'innegabile tramonto dell'età trentina, a mio avviso è questa: il Concilio di Trento ha rappresentato una continuità o una cesura nella storia del diritto canonico? Dalla risposta a questa domanda, risposta che deve essere certamente molto più complessa che non questa semplice schematizzazione, dipende la nostra capacità di comprendere unitamente in atto nella vita della Chiesa e non solo della Chiesa, di capire le linee di tendenza di un lungo periodo delle istituzioni, di capire quanta parte di noi è nata prima di Trento, in Trento o dopo Trento, e cos'è che noi ora stiamo abbandonando nel divenire storico. Certamente nelle commemorazioni del 1945 il panorama era del tutto diverso. Se guardiamo i contributi presentati con questo stesso titolo, infatti riprendo il titolo di alcuni grossi interventi in occasione della commemorazione del 1945, in quell'occasione noi troviamo espressa la tesi della perfetta continuità tra il corpus iuris canonici medievale, la legislazione trentina, vista a sua volta come preparatoria del Codex Iuris Canonici del 1917. Il Concilio di Trento ha innovato in moltissimi punti le norme precedenti, allora si scrisse, ma non pretendeva di essere un diritto nuovo in sostituzione del decretato. Ha avuto come caratteristiche proprie la romanità, la centralizzazione e la spiritualizzazione, preparando così una seconda età dell'oro della scienza canonica e aprendo il cammino al nuovo codice. Anche la storia del diritto canonico, allora pubblicata e destinata ad essere per decenni la parte di insegnamento accademico pontificio, quella di Alfonso Maria Stickler, parla del diritto trentino soltanto come epigono del diritto canonico classico o come tentativo fallito di creare un nuovo. Totalmente diverso si presenta il quadro interpretativo. Il centenario della conclusione del Concilio nel 1963. In parte per i progressi della storia del Concilio stesso, l'opera monumentale di Bertellin, che non cito più ma sta sotto anche ogni frase direi, che leggerò, la storia del diritto canonico degli anni 50, basta pensare a Gabriele Bra, del quale appare nel 1955 il volume dei famosi Prolegomen alla grande impresa della Histoire du Droit et des Institutions de l'Église d'Occitane, ma soprattutto per la nuova atmosfera coinvolgente nata intorno al nuovo Concilio Ecumenico Vaticano II. L'interesse allora, nel 1963, è concentrato sulla riforma pastorale di Trentino, in particolare nel quadro della discussione sulle chiese locali e sulla collegialità episcopale e sul rapporto papale-episcopale. Il contributo canonistico più rilevante in occasione di quel centenario mi sembra essere quello di Stefano Kuttner, per il quale il merito più rilevante dell'Assemblea di Trento è stato quello di aver trovato nella sua ultima e conclusiva fase, lasciando da parte la discussione dottrinale sul potere della Chiesa, una soluzione pratica e disciplinare centrata sulla pastorale e sulla salus animale. La discussione si è aperta negli anni successivi alla conclusione del Vaticano II, particolarmente in occasione della proposta di una lex fundamentalis ecclesiae. La riflessione sul significato del Trentino diveniva essenziale nella progettazione e la discussione del mondo. Lasciando da parte il dibattito sul piano teoretico, sul rapporto tra teologia e diritto canonico, sul rapporto tra legge e Vangelo, secondo un'espressione che appare sempre più frequentemente negli anni 70, mi limito ad accennare agli interventi che riguardano più direttamente i trentini. Il fuoco si apre con un intervento contenuto in un volume collettivo del significativo titolo Abschied von Trient, già citato altre volte in queste giornate. Il Trientino, nello studio particolare di Neumann, in questo volume, il Trientino ha costituito una tappa centrale del progresso di riduzione della vita ecclesiale alla sfera giuridica, alla disciplina esterna, processo sviluppato poi dal papato nei secoli seguenti e da cui anche l'attuazione del Vaticano II non riesce a liberarsi. È necessario sostituire alla legge tridentina un ordinamento ecclesiale basato sullo spirito e sulla comunione. In termini non così drastici, ma ancora più duri per il loro peso scientifico, Stefan Kuttner scriveva nel 1976 che il Concilio di Trento non aveva costituito un insieme organico di norme, era rimasto frammentario e soprattutto non aveva conservato lo spirito che animava nel periodo aureo il diritto canonico, rimanendo, è la sua espressione, ossificato, ossifato. Quindi nei secoli seguenti. Un nuovo approccio scientifico si è terminata la discussione intorno alla Lex Fundamentalis Ecclesiae con alcuni saggi degli anni Ottanta, in occasione della conclusione dell'elaborazione e dell'emanazione del nuovo codice di diritto canonico del 1983. René Metz accenna al fatto che il Concilio di Trento, nonostante le richieste dei padri, non ha promulgato una propria correzione ufficiale organica. Approfondiremo più avanti questo problema. Ma qui interessa sottolineare che questo serve a Metz per sottolineare il carattere imitativo e tardivo del codice di diritto canonico del 1917 rispetto al processo di codificazione del diritto degli stati moderni e per mettere in guardia dal vedere la soluzione del problema in una semplice riforma del codice stesso. Una mia interpretativa diversa, che mi sembra più fertile ed anche più coerente con la mia precedente esplorazione uscita nel 72, è quello di Gerard Franzen. Bisogna distinguere e discrivere nettamente tra i deliberati del Concilio e la loro attuazione, nella quale emergono quelle caratteristiche di positivizzazione e di nominalismo della norma che hanno posto le basi di una degenerazione nefasta del diritto canonico nei secoli successivi. Egli parla appunto di una idea a un veritato nominalismo giuridico, meno radicale nella forma, ma altrettanto dura nella sostanza, la diagnosi che dava negli stessi anni Jean Gobelin. Dopo Trento si afferma una concezione pontificale e tecnica del diritto che trova il suo compimento nel codice del 1917. La riflessione dei teologi e dei moralisti, pur così innovativi in questo periodo, scrive Gobelin, non ha che un'influenza limitata sui canonisti che si abitano in una disciplina appartata e monotona. Queste sono le sue parole. Ma si tratta complessivamente soltanto di alcuni accenni. In realtà la storia del diritto tridentino e post-tridentino continua ad essere una specie di buco nero, mentre gli storici del diritto canonico rimangono troppo attirati dagli splendori dell'età classica e i canonisti sono troppo presi dall'interesse per l'attuale diritto positivo per approfondire la genesi storica. Questa situazione si riflette anche nei più recenti manuali generali che praticamente saltano a pie pari quasi gli ultimi secoli. Anche i manuali dedicati specificatamente all'età moderna non vanno più in là di qualche intuizione e mancano di un adeguato aggiornamento culturale e storico. Non può essere quindi alcuna meraviglia se il diritto canonico è rimasto escluso dalla più generale riflessione che si è avuta negli ultimi decenni sulla genesi del diritto moderno europeo, come è stato recentemente sottolineato. Occorre quindi procedere innanzitutto ad una ricerca sul ruolo del diritto canonico nel Concilio di Trento. Non mi auguro minimamente che questo possa avvenire nell'ambito di una relazione congressuale, ma desidero tentare di costruire una griglia per i lavori futuri, indicando alcune piste. Per quanto riguarda l'inserimento dei decreti trentini nel quadro generale della politica del diritto di fronte al protagonismo dello Stato moderno, sono costretto a rinviare alla precedente relazione che abbiamo tutto nella settimana di studio già evocata, il Concilio di Trento e il moderno, quindi è tutto un settore che è qui non affronto. Resta il fatto che non credo si possa comprendere l'evoluzione interna del diritto canonico senza tenere presente il processo di positivizzazione e di statualizzazione del diritto che caratterizza il secolo XVI. Anche le linee fondamentali, come la separazione dei decreti di riforma da quelli dogmatici, così importante particolarmente nelle distinzioni teologiche e nella disciplina dei sacramenti, oltre naturalmente alla focalizzazione dei decreti intorno al nucleo interno della disciplina ecclesiastica in senso confessionale, il compromesso che portò alla conclusione positiva del Concilio con i grandi decreti di riforma del terzo periodo, con una rinuncia alla riforma complessiva della Repubblica Cristiana, tutto questo non può essere compreso al di fuori di questo quadro. Non è nemmeno mio compito analizzare la genesi dei singoli decreti disciplinari. Ciò è già stato fatto magistralmente per la parte storica da Ubaldi e per la parte canonistica da Bernard e Lefebvre. Qui mi limito a segnalare alcune posizioni che emergono nella preparazione del Concilio durante i lavori rispetto al problema complessivo del diritto canonico. E partiamo dai primi decreti di riforma della Curia Romana e della disciplina ecclesiastica prospettati o emanati dai pontefici nei primi decenni del Cinquecento. In essa appare evidente che non si pensa minimamente di introdurre una nuova legislazione. Si rinnovano e si precisano le precedenti decretali, si inaspriscono le pene per i comportamenti scandalosi, si moderano le concessioni di immunità e esenzioni dall'autorità ecclesiastica, in particolare per quanto riguarda gli ordini religiosi, il famoso mare magnum, eccetera. Ma il diritto vigente rimane quello del corpus iuris canonici. Come afferma XI nella bona superna disposizionis arbitrio della nona sessione del Concilio Lateranense V, maggio 1514, cupiente sigitur, quattro su nobis, exalto permititur, e aiam nimium invalescentia mala corrigere, a che plera qui in Cristo sacronum canum osservanzem reducere. Quindi c'è il tema dell'osservanza degli antichi canoni che è dominante, eccetera, eccetera, non vengo altre parti della Bona. Anche la più impegnata e nota riflessione, quella sulla riforma della riforma cattolica, il libello Sabrione X dei camaldolesi Paolo Giustiniani e Pietro Quirini, non sembra uscire, pur nella nuova ottica ecclesiale, dal cosmo della Repubblica Cristiana e del diritto canonico classico. La Sacrorum Canon Autoritas deve reggere, come nel passato, nos qui anche sub Christi nomine Europam habitamus. E la scienza dei canoni deve soltanto essere restaurata nella sua appartenenza teologica e purificata dai cavilli degli scolastici e dei causidici. La dottrina cristiana, dicono gli autori del Libellus, si divide soltanto tra una scienza dell'essere, la teologia, e una scienza del dover essere, il diritto canonico. Cum vero omnis cristiana disciplina, duper sic, alia in qua ea, que nos credere, que sperare, que amare delle amus, doceri possumus, alia vero in qua quid agere, quid evitare con bene uno spesso istituito, e tilda quid in teologia usata vocabolo, ec vero canonici iuris dottrina appellare consueti. Quindi la scienza dell'essere e la scienza del dover essere, la teologia e il diritto canonico. Questa è la posizione, diciamo, più profonda che troviamo in questione. Siamo all'immediata vigilia della riforma. E in pochi anni questo panorama è destinato a cambiare radicalmente, non soltanto nell'ambito evangelico luterano, per il quale giustamente negli ultimi decenni è stata sfatata la vulgata opinione di un'opposizione totale legata al ruolo del corpus iuris canonici, siamo agli studi di Johannes Eck e altri più recenti che hanno approfondito questo tema, ma anche nel mondo cattolico. La scienza del dover essere si stacca dal diritto canonico e dà origine in gran parte all'interno di quella che è usata erroneamente chiamarsi seconda scolastica, alla teologia morale o etica come branca sé stante, nata non soltanto dall'ampliamento dei tradizionali trattati sulle leggi, le virtù e i peccati, ma anche per la graduale incorporazione di una parte fondamentale del diritto canonico, in particolare le penitenze. Non per nulla, intorno al 1520, si insacchisse e si esaurisse la secolare tradizione delle somme di penitenza, delle somme di confessore, profondamente inserite all'interno della canonistica medievale. Sarà un cammino lungo che mi prometto di esplorare in altra sede. Qui basta questo accenno per affermare che, sotto l'impulso dello sviluppo della coscienza moderna e nell'inquietudine religiosa da essa derivata, al di sotto delle fratture che sconvolgono praticamente il mondo cristiano e che attraggono ancora oggi l'attenzione unica dei cultori di storia, si verifica un mutamento che non è soltanto antropologico, ma tocca le basi, o se vogliamo usare una parola abusata, le strutture della società occidentale. La distinzione della sfera della coscienza da quella del diritto, distinzione che investe tutto il mondo cristiano occidentale, quello cattolico come quello riformato, e che non va intesa banalmente come una separazione tra sostanze chimiche che si respingono, ma come un processo in cui la teologia morale assorbe molti elementi giuridici sino a sfociare nella casistica, mentre il diritto, separato dalla sua base teologica, o si positivizza completamente o cerca nell'elaborazione autonoma del diritto naturale una nuova composizione con i suoi fondamenti metagiuridici. Per quanto riguarda il nostro tema specifico, ritengo impossibile avanzare la tesi che al tempo della provocazione del Concilio e durante il suo lungo svolgimento questo processo fosse ormai irreversibile e che quindi avesse contribuito già ad una frattura interna e inconsapevole dell'Assemblea fra il piano della ricerca teologica e il piano della riforma della disciplina ecclesiastica, che ha portato alla scomposizione tra i decreti dogmatici e i decreti disciplinari. Non si legifera più per la Repubblica cristiana, anche se si dichiara di volerlo fare, ma per una Chiesa che nella misura in cui introita elementi della sfera giuridica e politica diventa confessione. Il disagio è già avvertibile nelle discussioni che si aprono a Roma nel 1537-38 con la costituzione della Commissione del Rectorum Capitale Italiorum Prelatorum Denominanda Ecclesi, istituita da Paolo III. Il celebre Concilio che conclude il lavoro si apre, dopo le prime fasi di convenienza, con una citazione della Politica di Aristotele. Qui evito citazioni lunghe, ma dice: non c'è nessuna consuetudine più perniciosa in quali repubblica, in qualsiasi repubblica, quam ec lego in observanza. Quindi il problema che pone è un problema di una politica ecclesiastica, in questo senso, di una legislazione ecclesiastica. Al di là dei singoli abusi, il problema che si pone è quello dell'osservanza della legge nelle nuove condizioni storiche. Da questo punto di vista è illuminante la risposta polemica che al Consiglio dà un fine giurista come il cardinale Bartolomeo Piniccioni. Non c'è alcun bisogno di una nuova legislazione, tantomeno conciliare, dice e scrive Bartolomeo Piniccioni, tralascio molte frasi di questo suo parere. Nulla nuova Costituzione opus est, non c'è più una nuova Costituzione, quantum adnet ad fidem, sacramenta, mores, judicia, beneficia, cultum, ceremonias. Factis iam legibus, constitutionibus et canonibus, satis decretum, sancitum et prospectum est. Abbiamo già le leggi, servendo, neque a libido, contenzioso, di uso socco concilio, meliora, salubriora, opportuniora decreta, iura, premedia, expectendo, aut sperendo. Cioè non abbiamo bisogno di una nuova legislazione, abbiamo solo bisogno di seguire la legge. E questa è una, sono affermazioni molto note, ecco, ma mi vorrei fermare su una in particolare. Nec deve reprensibile indicare si secondo una vietà del templum statuta variantur, cioè non deve essere giudicato reprensibile che secondo la varietà dei tempi mutino anche le leggi, gli statuti, cioè le leggi scritte. Nec dici potest abusus quod fit aliva legge, quiatura si divine non repugnit, cum et derogare tabucare modus possit, quia una quaque res per qualunque causa nascitur per astem dissolvitur, et nimi tam naturale sit quod eodem iure quoque dissolvit possi quod colligatum est. Tolerat ecclesia lupanaria ne libidinis omnia compleantur. Mi fermo su questa frase perché c'è la differenza proprio dal diritto positivo che cambia, la Chiesa tollera i postriboli dalla legge divina. La citazione sarebbe stata lunga, qui ho utilizzato diverse altre frasi che potevano essere ovviamente interessanti, ma credo sia fondamentale. Normalmente coloro che studiano la Riforma cattolica hanno visto nei consigli una delle espressioni più alte della corrente riformatrice e nel Guidiccioni l'espressione di un sostenitore del diritto esistente e della prassi curiale, anche se non un difensore incondizionato dell'ordinamento antico. Dal nostro punto di vista il discorso deve essere un po' più complesso. Il Guidiccioni è molto più moderno nella misura in cui ha recepito, accanto alla distinzione delle tre diverse persone che compongono la figura del pontefice, principe sovrano, vescovo di Roma, pastore universale della Chiesa, il carattere positivo della legge in senso moderno, come atto sovrano modificabile da parte della suprema autorità ecclesiastica, nella misura in cui non contraddice l'immutabile diritto divino. Questa è la contraddizione che noi troviamo lungo tutti i dibattiti conciliari, dal 1545 al 1563 sulla riforma della disciplina ecclesiastica. Sarebbe importante una loro analisi, particolarmente per quanto riguarda gli elenchi delle centinaia di impedimenta o gravamina che i padri conciliari denunciano sia nei confronti della Curia romana che dei principi secolari. Ciò non è certamente più possibile, ma credo si possa affermare che questa è la frattura che domina tutti i lavori conciliari e che non porterà il Concilio al fallimento soltanto per l'opera di compromesso elaborata dal Cardinale Giovanni Moroni nell'ultima fase, negli ultimi mesi del Concilio, e per la decisione di sottomettere i deliberati del Concilio all'approvazione del Papa. Il richiamo contro una legislazione onnicomprensiva e astratta viene ripetuto tra gli altri da Federico Nausea alla vigilia dell'apertura nel 1543 e da Gerolamo Silipando, uno dei futuri presidenti del terzo periodo durante il pontificato di Marcello II nel 1555, in cui riafferma che l'impedimento principale della riforma è che non si considerano le cose secondo che sono in fatto e in pratica, ma per via teorica e in astratto. Nel fatto della riforma, considerando est, scrive Silipando, quod est, itque physice et in materia, non metafisice et nuda cogitazione, et sia nulla. Non è dubbio che la potestà del Papa è principale della Chiesa, superiore ai concili, canoni, eccetera, la qual potestà consiste in due cose, in osservare e fare osservare le sante leggi dei concili e i santi canoni, e in dispensare particolarmente dove la salute dell'anima il richiede. Questo si ripara. Giovanni Francesco Comendone riassume nel 1556 le varie tesi in tre diversi indirizzi. Secondo lui, ci sono alcuni che sono contro l'emanazione di nuove leggi, concesso a cosa che il fare di mutare tuttavia le leggi toglie la forza a quelle antiche e non la dia alle moderne, non avvenendo nelle leggi quello che nelle arti, nelle quali e le regole e i precetti si mutano e si debbono sempre mutare, perché nelle cose civili la forza delle leggi dipende tutta dalla reputazione e dall'osservanza invecchiata dei loro comandamenti, in modo che è molto peggior stato dove le buone leggi non sono obbedite che dove le non compitamente buone sono obbedite. Quindi primo premio, non facciamo nuove leggi, perché la forza delle leggi sta soprattutto nella loro vita, nella loro durata, nella loro tradizione. La seconda tesi, dice lui, è favorevole a una nuova legislazione organica. Altri all'incontro potrebbe per avventura a favore delle nuove leggi argomentare il contrario, perciò che, dopo tanta dissoluzione, voler fare osservare quelle leggi che per un tempo non sono state osservate e con la disusanza hanno perduto la forza e la reputazione presso i popoli, non pare che sia sufficiente ormai. Dalla qualcosa ancora si può comprendere la somma utilità che seguirebbe di un'intera riforma, di riforma organica, in quanto aiuta a farne un giorno davvero, perciò che dall'estrema corruzione suole naturalmente uscire il principio della generazione, essendo necessario che all'introduzione di una forma perfetta preceda la privazione di ogni altra forma, quindi la tesi di una legislazione organica nuova distaccata dal diritto canonico precedente. Infine, lui elenca una terza opinione da scartare, secondo lui, per la sua palese inefficacia, cioè la pubblicazione di un solo decreto universale che comandi di nuovo di osservare i canoni antichi per dare o piuttosto restituire la forza con questa nuova legge, così scriveva. Rimane il fatto che l'Assemblea conciliare non compie alcuna scelta decisa e si muove in modo empirico sia la sua conclusione, riformando gli antichi canoni e introducendo nuove disposizioni senza alcuna possibilità di produrre una nuova legislazione organica. Ciò che viene accettato è il principio moderno della variazione storica delle leggi, anche umane e anche ecclesiastiche, ben distinte formalmente dalla definizione dogmatica. La più chiara teorizzazione di questo atteggiamento mi sembra quella contenuta in un memoriale del 1562 di Francisco da Cordova, a cuiunque legge non naturali, etiam sisi divina, non repugnant variatio, cioè il mutamento non ripugna a tutte le leggi umane, comprese quelle ecclesiastiche. Riassumo qui, insomma, nell'Antico Testamento c'era la legge della circoncisione, che prima dell'avvento di Cristo era una santa legge e poi è diventata, come lui scrive, mortifera. E questo è il segno appunto di questa mutazione delle leggi umane che è propria appunto di ogni società e quindi anche della Chiesa. Interessante questa sua continua, questo continuo parallelo tra la Repubblica civile e la Repubblica ecclesiastica. Tamen sicut Repubblica civilis, ultra legge naturale, indice legge umana, la Repubblica civile ha bisogno della legge umana oltre che quella naturale, et sine legibus humanibus humanis respublica non stabit, ita religio cristiana ultra divinam legem indice legge umana, quae cum sit variabilis varianda est auta vocatio. Quindi c'è questa netta distinzione di piani. Cum sine tal legge christianismus, usa la parola christianismus come sostantivo al posto di Repubblica Cristiana, e qui è importante appunto questa nuova terminologia che si affaccia, a mio avviso, in sua puritate permanet quantum ad fide veritatem et morum integritatem. Quindi è necessario che il mantenimento del cristianesimo in questo doppio piano. Così si spiega il fatto che, affrontando la discussione generale del grande progetto di riforma nel maggio 1563, uno dei grandi protagonisti dell'Assemblea, Nicolas Pedevé, arcivescovo di Sens, chiede la revisione di una codificazione della legislazione canonica, date le contraddizioni, le sovrapposizioni e le incongruenze. Poiché la professione del diritto canonico scrive necessaria e si continua oggi nei libri delle decretarie e nel Liber Sextus, dove sono molte costituzioni che sono state abrogate o che non sono state applicate, e che non sono, o che non sono più utili, ecco, bisogna riformare l'insieme del corpus iuris canonici e creare un vero ius pontificio, quod servandum sit, un vero diritto pontificio che si debba osservare. Et fiat titus debetere iuri pontificio nucleando, sicut olim factum est in iurici, come per il diritto civile si è arrivato al grande corpus iuris civilis, così bisogna fare per il diritto canonico. Lo dirò dopo, ma non esisteva formalmente il corpus iuris canonico, ma esistevano i vari libri diciamo, entrati, ufficializzati man mano. Quindi lui chiede che si costituisca questo corpus iuris canonici in parallelo al corpus iuris civili. Quod sane opus esset valde dignum hoc concilio et utili cristiane republice. E quindi lui esige questo. In un'altra redazione di questo intervento, il PDP sottolinea poi che particolarmente in Francia il liber sextus non è recepito in molte delle sue parti e quindi bisogna espurgare i libri di diritto canonico, ripeto, ut aberet de iure canonico veteri, de iure canonico veteri nucleando ut abeto in lingue civili, cioè bisogna fare questa trasformazione come è avvenuta nel diritto civile così anche nel diritto. In realtà, nulla di tutto questo si poteva fare negli ultimi frenetici mesi di attività del Concilio. Rimane questo intervento del Cardinale dell'Arcivescovo di Sons, ma senza alcun impatto nei lavori conciliari. Il fruttuoso compromesso fu trovato per l'abilità del Cardinale Giovanni Moroni, come è noto, dei suoi collaboratori, sui punti principali della riforma, sui punti concreti, sulla figura e i poteri dei vescovi, sul diritto dovere di residenza, sul matrimonio, sulle opere religiose e su tante altre materie. Ma il problema dell'inserimento dei decreti conciliari nel diritto canonico rimane insoluto. Tutto fu rinviato alla decisione del Sommo Pontefice, con la richiesta generale di conferma contenuta nell'ultimo decreto promulgato in Trento prima della rilettura complessiva dei decreti e della richiesta di approvazione al Pontefice, dove si diceva che se ne sarà qualche difficoltà nell'applicazione, nella interpretazione del Concilio, il Sinodo confida che il Papa procurerà, chiamando coloro che sono interessati dalle varie province della cristianità, per risolvere il problema, o anche mediante la convocazione di un nuovo Concilio generale, se lo giudicherà necessario. Etiam concili generali celebrazione si necessario giudicare vel conduttore qua comperazione e in fuori eccetera. Ma la cosa che vorrei sottolineare è questo, cioè che proprio presentando i decreti conciliari al Papa per la approvazione si prevede il meccanismo di scambio con le chiese locali, nel caso dei problemi che fossero sorti, o della convocazione di un nuovo concilio generale. Il destino dei decreti trentini si decide così non all'interno del concilio, ma nei primi mesi del post-concilio. Nelle discussioni che avvengono in consistorio e nelle speciali commissioni che si formano in Roma a partire dello stesso mese del dicembre 1563. Ho esaminato in altre sedi in modo abbastanza dettagliato le discussioni che si succedettero in queste congregazioni sino all'approvazione verbale in consistorio nel gennaio, nel 26 gennaio 1564 dei decreti trentini, è la pubblicazione emanata dalla bolla di conferma Benedictus Deus pubblicata nel giugno successivo, anche se datata formalmente 26 gennaio. E anche questo è interessante, cioè i decreti concili non vengono approvati subito, ma vengono approvati con una bolla che esce nel giugno successivo, dopo sei mesi di divergenti discussioni e anche di divergenti redazioni di questa bolla. Ma su questo non mi fermo, perché ho già accennato in altra sede, e in parte bisognerebbe rifare una storia molto più precisa di questi mesi. Qui mi limito ad estrarre le conclusioni inserendo nel quadro generale del nostro problema. In primo luogo, occorre notare che si pensa subito ad una edizione di tutti i deliberati del Concilio, comprendente sia le costituzioni dogmatiche che i decreti di riforma. Tale edizione curata da Paolo Manunzio uscì già nel marzo 1564 e ad essa seguirono numerose altre nei mesi successivi. Ma la cosa importante è che nella stessa edizione si promette un altro volume con gli atti conciliari, Postea alio lumine universa historia imprimetur. Questo è detto ancora e stampato nel marzo del 1564. Il lavoro di documentazione della storia del Concilio continua ancora nei mesi successivi, ad opera del segretario ufficiale del Concilio stesso, Angelo Massarelli. Ma la sua conclusione e la sua pubblicazione vengono vietate. Tutto rimane custodito gelosamente, anzi continuerà nei decenni successivi lo sforzo dei papi per reperire e chiudere sotto stretto segreto tutte le fonti relative alla storia del Concilio, sino alla pubblicazione della storia di Paolo Saro, la risposta alla quale non verrà affidata nemmeno allora alla pubblicazione degli atti ufficiali, ma alla rielaborazione apologetica del cardinale Pietro Sforza Pallavicini. Questa rinuncia alla pubblicazione degli atti, che ovviamente per i decreti disciplinari in particolare era essenziale, e questa chiusura sono da collegarsi con la svolta drammatica che avviene nei primi mesi del 1564 a proposito dei decreti di riforma e che porta alla riserva al pontefice e per lui alla nuova sacra congregazione concili interventino interpreto, come verrà poi chiamata dopo, ma che è già operante in questi mesi, di tutta la materia relativa ai canoni disciplinari. Mentre le costituzioni dogmatiche iniziano con le prime edizioni dei decreti il loro viaggio all'interno della Chiesa Cattolica e del pensiero teologico, seppur nelle gabbie concettuali della scolastica e dell'insegnamento universitario ufficiale, che porterà la professione fin dai Trentini al catechismo e innumerevoli commenti trattati, naturalmente sottoposta alla vigilanza delle congregazioni formalmente deputate al controllo dell'ortodossia del Santo Ufficio e della congregazione dell'Indice, per i decreti disciplinari viene attuato un blocco totale che sottomette ogni singolo problema che nasce dalla loro applicazione al giudizio di Roma. Il contenuto della bolla Benedictus Deus è già inequivocabile. Apostolica autoritate, in venus omnibus, ne quis sine autoritate nostra, audia unus commentarios, glossas, annotationis, scoria, ullumbe omnium interpretationis, penus superipsius conscipi decretis, quocunque modo edere, aut quidquam, quocunque nomine, etiam sub pretextum maioris decretorum corporationis, aut executionis, agli ove quesito colore e statue. Cioè c'è il divieto di fare grossi commenti, qualsiasi cosa, anche sul pretextus maioris decretorum corroborationis, cioè anche per aumentare la forza dei decreti. Non è più possibile riprendere il tema delle origini e degli sviluppi della Sacra Congregazione dei Concili. Rimane fondamentale la testimonianza di alcuni decenni di tardi del grande canonista segretario della congregazione dal 1613 al 1625, Prospero Fagnani. All'inizio i compiti erano limitati all'esecuzione dei decreti, poi si sono allargati alla loro interpretazione e alla decisione di un caso in cui fosse coinvolto un decreto disciplinare studentino. Ciò che è importante sottolineare, nella testimonianza di Fagnani, e che anche le sentenze della congregazione, contrariamente alle decisioni della volta stessa e alla prassi normale di tutti i tribunali, non furono mai rese pubbliche, cioè le sentenze non vengono rese pubbliche. Il divieto assoluto di gloss, commentari ed anche di una giurisprudenza interpretativa sarà reciprocamente mantenuto in tutto il secolo successivo al Concilio. La giustificazione dei canonisti curiali sarà sempre quella che ciò era stato fatto per impedire lo snaturamento della riforma. Nella realtà questo blocco porta allo snaturamento del diritto canonico e alla completa estraneazione della disciplina ecclesiastica non soltanto dalla teologia, ma dalla elaborazione giuridica della scienza del diritto. Anticamente il corpus iuris era inviato alle università perché entrasse nella vita e nella riflessione della cristianità. Questo ormai è avuto. La prima conseguenza è la frattura completa tra il diritto canonico classico e il nuovo diritto trentino pontificio. Nel 1564 era stata progettata la redazione di un nuovo libro da aggiungere dopo l'Extravagantes, cioè l'ultimo libro del diritto canonico classico, diciamo, dal titolo Constitutionis Pii IV ex Concilio Tridentino, da inviare secondo l'antica consuetudine ai dottori e agli scolari dell'Università di Bologna, ma l'impresa viene bloccata sul nascere. Bisognerà aspettare un altro grande papa canonista, Prospero Lambertini, benedetto XIV, perché si tenta a metà del Settecento di riprendere questa tradizione, quando però il processo di ossificazione del nuovo diritto pontificio è troppo avanzato per poter investire in merito di cammino. In questo quadro va poi inserita l'opera di un altro grande canonista, Ugo Boncompagni, che aveva collaborato al tentativo del 1564. Divenuto pontefice, Gregorio XIII dedicò gran parte della sua attenzione alla revisione del diritto canonico classico, alla nota edizione d'opera dei correttores romani, del decreto di Graziano, delle collezioni classiche pontificie, sino alle stravaganti. Nel 1582 è promulgato in modo ufficiale per la prima volta il Corpus Iuris Canonici, prima non esistente come collezione organica. Esso nasce non come una sistemazione del diritto vigente, ma come una raccolta dalla quale il nuovo diritto tridentino è escluso. In questo quadro va pure letta l'altra grande impresa patrocinata da Gregorio XIII, la grande collezione dei trattati giuridici stampata a Venezia nel 1584, oltre 30 volumi, il Trattato Universi Iuris. Non contiene alcun riferimento alle nuove norme e fa emergere un mondo giuridico decisamente pre-tridentino. Anche i lavori proseguiti sotto Sisto V e Clemente VIII per la raccolta dei testi legislativi posteriori al Corpus e che si concludono nel 1598 con la pubblicazione del cosiddetto Liber Septimus Decretarium Clementis Octavi, non ebbero alcuna efficacia e questa raccolta non ebbe mai l'approvazione pontificia e non fu promulgata ufficialmente e nemmeno divulgata perché in essa erano inseriti decreti del Concilio Tridentino che sarebbero stati così inevitabilmente oggetto di grosse e di commentari contro la Costituzione di Pio IV, contro la Benedictus Deus che abbiamo prima citato. La seconda conseguenza è la frattura definitiva, anche sul piano della prassi, tra il diritto canonico e la teologia, con la esclusione di ogni problema riguardante la fede da un universo normativo che viene ridotto a disciplina ecclesiastica, ben prima che la stessa espressione del diritto ecclesiastico nasca in contesti storici diversi. Il diritto canonico si identifica con la polis ecclesiastique, come scrive Louis Thomas Sanders alla fine del Seicento, e deve essere studiato nella sua realtà concreta, compiendo una riappropriazione di tipo storico, non di tipo giuridico attuale. Dice Thomas Sema, ci sarebbero tante cose da leggere, ma una frase che mi piace è: la police de l'Église ad hoc sa jeunesse sa vieillesse, le tante se progrès et celui de se perdre. Sa jeunesse a lui plus de rigueur, mais a lui bien des défauts. Quindi c'è questa concezione di una disciplina ecclesiastica che ha avuto una sua giovinezza, che ora ha una sua vecchiaia e che aveva difetti nella giovinezza come nella sua vecchiaia. Ma lasciamo perdere altre cose. Una terza conseguenza è che la scienza canonistica perde la sua funzione fondamentale di generatrice di diritti. La concordia e discordanza un canone, a ragione di essere del diritto canonico medievale, è resa impossibile dalla proibizione di grossi commenti e dall'esclusione dei canoni tridentini dall'insegnamento universitario. Fallissero anche tutti i progetti di un'elaborazione sistematica del diritto canonico sullo schema di quanto avvenuto nel diritto civile. I tentativi compiuti da giuristi di scrivere delle istituzioni iuris canonici analoga alle istituzioni iuris civilis, cioè in senso appunto di dottrinale, di elaborazione organica dottrinale, cadono nel vuoto. Una quarta conseguenza è la identificazione del potere legislativo con il potere di giurisdizione, in contrasto con tutta la logica del diritto canonico classico. La proibizione di pubblicare, diffondere in qualsiasi modo le decisioni della congregazione del Concilio rende impossibile la formazione di una prassi giurisprudenziale e quindi il richiamo ai precedenti che è l'essenza del nuovo diritto moderno, del common law inglese, per esempio, insomma. Consolidata nei tribunali invece e in particolare nello stesso tribunale romano della Roma, della Sacra Roma. Il processo di concentrazione della sovranità si sviluppa in modo analogo a quanto avviene nelle monarchie assolute, ma senza aprirsi al processo di modernizzazione e quindi di codificazione del diritto per il blocco posto sulla legislazione tridentina. Una quinta conseguenza è il tramonto della capacità legislativa delle chiese locali. Ne ho parlato altrove di questo, quindi mi limito solo a dire che dopo la fermata seguita alle prescrizioni di Trento sull'obbligo di convocazione del sinodo diocesano ogni anno e del concilio provinciale ogni 3 anni, si arriva al paradosso di condizionare non solo la promulgazione dei decreti, ma la stessa convocazione dei concili provinciali alla preventiva approvazione di Roma. Ho esaminato in questo quadro l'esempio del fallimento di Carlo Borromeo nel tentativo di creare una legislazione metropolitica. Il processo di svuotamento del potere normativo delle assemblee diocesane e provinciali rimane irreversibile durante i secoli dell'età moderna. E andiamo alla conclusione, sono un po' una conclusione breve, ancora 5 minuti. Il ciclo iniziato con la fine della Repubblica Cristiana mi pare così concluso. Il Concilio di Trento costituisce uno spartiacque tra due epoche diverse. Non può essere assimilato al diritto precedente perché non propone un universo normativo che unisca l'essere al dover essere, che mantenga l'unione tra la teologia e il diritto canonico. Non può essere assimilato al diritto pontificio successivo che accetta questa separazione e si positivizza come disciplina ecclesiastica. Forse la diagnosi più acuta di questo disagio, di questa frattura, la troviamo nelle pagine del cardinale Giovanni Battista De Luca, la più grande e isolata figura gesuita del Seicento, così apprezzato dagli storici del diritto europeo quanto ignorato dai canonisti. Polemizzando con Martin Aspicueta, il celebre dottor Navarro e altri moralisti, egli sostiene che i giuristi non hanno voce in capitolo nei problemi che riguardano la coscienza e il foro interno, terreno riservato ai teologi e moralisti, ma soltanto nel foro esterno, nel quale non si può giudicare delle intenzioni, ma soltanto dei fatti e delle prove. Mentre i moralisti non possono intervenire sul terreno giuridico forense, combinando con un discorso sulle intenzioni la indispensabile oggettività del diritto. Io mi astengo da questo, scrive, retinendo consuetudini, non omitendi falcem in essem alienam. Non voglio mettere mano in questioni morali o teologiche. Verum impraticabile est in foro externo, in quo non judicatur de internis, quel soli Deo patent, che sulle cose interne, sulle intenzioni giudica solo Dio, se procedetur cum actis et probatis, ec est potissima ratio, ob qual in foro externo non latenus deferendum moralis. Nel foro esterno non si deve nulla ai problemi morali. Ai moralisti. Qui stanno un ultimo a comunio deferendum in interno, mentre invece alla morale bisogna riferirsi per il foro interno. In quo è converso, canoniste forenses non debet se ingerere, se qui vivet manus a poner debet in proprie messe, quando proceditur per ognuno diversa media. Nessun cattolico può negare, e gli scrive, in particolare il dibattito era sull'usura, che l'usura e gli interessi siano illeciti, ma la legislazione sui contratti è tanto diversa negli stessi paesi cattolici, così diversa nella stessa Italia tra Roma, Napoli e la Liguria, di modo che uno stesso contratto in un luogo è lecito, in un altro è proibito. E il peccato e apri in ogni sit cattolica religio, esistono in relativibus principis regulanda, e adempo individua sit anima et conscientia, non videtur quomodo possim sim stare, ut qui in un loco accessiones recipit in stato peccati, ac damnationis censere debea, in altro autum obeatum in stato salutis. Che non si può pensare che uno, facendo le stesse cose, sia in un posto appunto condannato e nell'altro salvo. Dunque, soltanto il diritto canonico si ossifica e si positivizza, ma questo processo muta sostanzialmente lo statuto del cristiano nella Chiesa e nella società, introducendo una frattura prima impensabile tra foro esterno e foro interno, tra peccato e reato. Il dualismo cristiano si è trasformato da un dualismo di ordinamenti giuridici tra loro concorrenti, il sistema del diritto canonico e il sistema del diritto civile, all'interno della Repubblica Cristiana, ad un dualismo tra la sfera dell'etica e del nascente diritto naturale e la sfera del diritto positivo. Una trasformazione che investe non soltanto la vita della Chiesa dei tempi moderni, ma l'evoluzione della costituzione politica e sociale dell'Occidente e le stesse radici delle libertà democratiche. Una distinzione che in fondo ha permesso la continuazione del dualismo cristiano in una forma data ai secoli dell'età moderna e quindi la messa in discussione della sacralità del potere di fronte al tentativo dello Stato moderno di concentrare sovranità e religione in forma confessionale o secolarizzata. Ora tutto sta cambiando e occorre forse non una shift from Trient, ma un ripartire da Trento per riprendere un nuovo cammino adatto al prossimo millennio. Io sono soltanto uno storico e a questa storia affascinante degli ultimi secoli, dal pluralismo degli ordinamenti giuridici allo sviluppo del nuovo dualismo tra coscienza e diritto, intendo limitare il mio lavoro. Grazie. Ringraziamo il professor Prodi di questa panoramica che ci ha dato il rapporto del diritto e la Chiesa, la teologia, le varie interferenze e anche il rapporto con il diritto civile e quelli che sono stati non soltanto i benefici apportati alla Chiesa e alla società dallo sviluppo del diritto in questi quattro secoli, ma anche ci ha fatto vedere quello che potrebbe essere anche un auspicio di sviluppo ulteriore che farebbe anche risentire la natura della Chiesa come realtà storica, come realtà anche sociale, non in contrapposizione con la Chiesa misterica, con la realtà interiore soprannaturale della Chiesa, ma insieme nel suo aspetto sia di realtà divina che anche di concretizzazione umana.